va al mare la domenica, io neanche il lunedì odio chi va a spasso con la moto mentre io rimango qui e odio chi ha il proiettore in casa per vedere film svedesi, odio chi si cambia l'automobile una volta ogni sei mesi, odio chi quando... Beh, non ci vedo, cioè, è luce, si è fatta un po' di luce. Odio chi quando ha messo... Odio chi compra i calzoni come i miei, ma molto meno. Odio chi quando è che parto sta a fregarmi il posto intero. Odio chi mi incontra quando mi andrà per le scale. Non ti vedo tanto bene, ma che c'hai, ti senti male? E odio chi... Non vedo. Vieni. Ce l'ho. Ma sei una cazzo. Ne canto una stampata una favola. Cantate con me? In questa... Siete venuti qui? Odio chi prende a calci cani a casa il pesciolino in vasca. Odio chi si sposa con una mano al cuore e un'altra sulla tasca. E odio chi continua a raccontarmi che si è fatto la cosetta. Ma così mangiare poco e sta attento ad ogni sigaretta. Odio chi va a messa la domenica e poi picchia i figli. Chi in finestra sta a sballare mentre sta annaffiando i gigli. Odio chi mi dice quando che mi incontra per le scale. Non ti vedo tanto bene, ma che c'hai, ti senti male? E odio chi è un tipo serio solo quando sta telefonando. Odio chi mentre sganascia un pollo, poverino, il terzo mondo. Odio chi fischia un concerto, chi pazzisce per la moda. Odio chi ha il passato incerto e chi ha il gatto senza coda. Odio chi ha un miliardo in banca, un futuro senza rischi. Chi è tranquillo sulla panca e chi non compra i miei dischi. La la la la la la. Quest'anno è andata così, se altro anno sono andato al mare, va bene?